che ciò viene lento di vagare, una musica brutale incendiò nostra passione. Melog 2.0 2.0 di Gianluca Nicoletti. Ancora non l'avevo mai detto alla radio, ma alcuni fedelissimi e affezionati ascoltatori che mi seguono H24 nelle espansioni di questa trasmissione che serpeggiano lungo la rete già lo sanno che da qualche mese io mi sono fatto impiantare addosso una protesi vocale perenne. Significa che io durante la giornata ogni tanto esprimo vocalmente dei miei pensieri su quello che mi sta accadendo, su quello che vedo, su episodi della giornata, della cronaca, dell'attualità, e questi automaticamente si pubblicano in un luogo della rete che ancora non vi dirò, lo troverete, l'andrete a cercare e via dicendo. Ho esteso questa possibilità ad alcune ascoltatrici che ho chiamato narratrici epiche quotidiane. Anche loro le ho dotate di protesi vocale perenne, anche loro durante la loro giornata, il giorno, la notte, la mattina, il pomeriggio, sole, in compagnia, in gruppo, sulle scogliere, raccontano quello che loro accade. Ma istantaneamente, grazie a un dispositivo messo a punto da accuratissimi e misteriosi melogmani, la loro voce si pubblica da qualche parte, chiunque può ascoltarla. Beh, io vi rivelo un dietro le quinte di quella trasmissione che normalmente ascoltate alla radio. Tutte le mattine faccio normalmente un piccolo racconto quando esco dalla metropolitana a Piazza della Repubblica per venire qui alla radio e annuncio e preannuncio quello che è l'argomento del giorno. Quindi la setta segretissima che mi segue con la protesi vocale perenne sa esattamente qual è l'argomento della trasmissione un paio d'ore prima. L'argomento di questa mattina me l'ha suggerito l'uscita alla metropolitana di Piazza Repubblica. C'è sempre una coppia, marito e moglie, sudamericani, che cantano canzoni. Questa mattina cantavano Cucuru Cucu Paloma, era divertente. E c'ho sempre questo sottofondo di canzone e racconto, mi viene in mente l'argomento del giorno. Questa mattina mi guardavo le scarpe salendo le scale, belle scarpettine nere, mi piacciono molto, hanno anche un bel taglio, sono di linea secondo me molto moderne, poi sono quelle con cui sto meglio, le metto soltanto l'estate. Dico che belle queste scarpette, quanto mi piacciono. Poi improvvisamente mi ha colto un pensiero. Io queste scarpe le ho comprate maggio 2004, quindi sono 5 anni che le porto, come mai sono nuove? Come mai io le vedo così moderne, così attuali e così giovanili? Hanno 5 anni queste scarpe. Allora ho detto a me stesso, oggi devo comprarmi un paio di scarpe nuove, chissà perché me le compro quando ormai è già autunno, però mi piace, le voglio cambiare, anche se queste le metterò nel sacrario delle scarpe vecchie, ho interi scatoloni di scarpe che non metto più. Però ho fatto anche un altro pensiero, se le compro oggi, fra 5 anni mi riporrò il problema, ma io tra 5 anni avrò 60 anni, quindi cosa faccio? Compro 2 bare per i miei piedi, io 60enne con il carrellino e con le stampelle, con queste scarpe compro oggi. E mi sono posto per la prima volta, forse in vita mia, il problema di come uno va vestito, di come gli altri ti vedono, come gli altri li vedranno. E quindi questa mattina chi non si piace, chi si pone problemi simili ai miei, chi si guarda addosso e si dice ma io cosa faccio per me, per essere accettabile, per essere gradito, per essere potente come immagine? Non so, i grandi, i politici, gli uomini di spettacolo fanno qualcosa per la loro immagine, ma le persone comuni come noi normalmente sono talmente affrante e assatanate dal quotidiano che nulla fanno per la loro immagine, anzi pensano di fare il tutto possibile, poi come me si ritrovano con scarpe di 5 anni ai piedi. Beh, 800 24 00 24, chi pensa che probabilmente è ora di mettere le mani nella propria immagine e che pensa che ancora può farci qualcosa prima della totale rottamazione della propria autostima, ci ascolti. Secondo passaggio molto ma molto importante è come tu vai verso questa persona. Ricordati, petto in fuori, spalle aperte, pancia in dentro, ce lo dicevano fin da bambini, è importante che tu vada verso la persona con una postura eretta e con un portamento, una camminata, che siano armoniose, che siano al suo tempo ritmati, e ricordati che il passo è molto importante, le persone che si trascinano nel camminare o quelle che saltellano danno delle sensazioni non proprio positive nell'altro. Sorridi anche con lo sguardo, sorridi anche con tutte le tue espressioni facciali, con i tuoi occhi. È fondamentale che tu guardi l'altra persona per qualche istante più del solito, perché in quel dentro di lei già un ricordo molto positivo. mi sono accorto che senza impegnarsi nemmeno tanto, basta cercare su YouTube, si trovano decine e decine di guru del comportamento. Questo signore, ad esempio, uno probabilmente lo fa di mestiere e ha messo in rete, come tutti fanno e sanno che è una maniera facile, economica, diretta per comunicare una propria attività, una serie di video esemplificativi di quella che è la sua attività di consulente d'immagini. Io probabilmente ho dei problemi miei personali, perché ho visto questo signore rispettabilissimo, professionista, con un golfino rosso a scollo a barca, trasparente, sotto il quale si intravede la sagoma nera della sua cravatta. Sembra quasi che abbia una bara al collo, scusatemi, ma l'immaginare è molto contaminato dalla cronaca di questi giorni. Io penso alla mummia di Macchi Buongiorno, alla Triennale a Milano, e non posso fare a meno che inanellare questa serie di concatenazioni. Beh, questo signore spiega come uno dovrebbe seguire i propri consigli per essere migliore. Pancia in dentro e petto in fuori, me lo diceva mio nonno da quando avevo 3 anni. Me lo diceva talmente tanto che io cammino che sembro il gobbo di Notre Dame. Però non c'è niente da fare. Poi ho visto un'altra serie di video di una gentile ragazza che, fatta in maniera molto amatoriale, con una telecamerina casalinga, una webcam, luci pessime, lei è caruccia, carina, pulita, fa dei video dove insegna a truccarsi, ma insegna, dice cose semplicissime, banalissime, potrebbe dirvelo la parrucchiera all'angolo della vostra metropolitana. Però ha decine di migliaia di contatti, decine di migliaia di persone seguono, come lei fosse una sacerdotessa dell'aspetto, i suoi semplicissimi trucchi di come truccarsi la mattina. Allora, ciao a tutte. In questo tutorial voglio fare un trucco veloce e quindi metterò l'eyeliner e un lip gloss. Ciao a tutte, vi voglio parlare della cura dei capelli. Anche questa parte, che appunto è uno dei miei, delle regole fondamentali per essere sempre perfette. Questo è un trucco che potete fare tutti i giorni. Dovete uscire e non avete tempo, oppure non so se dovete andare a fare la spesa. Oggi ho deciso di fare questo trucco ispirato alla bellissima Jennifer Lopez. Margherita Perico, buongiorno. Buongiorno Gianluca. Dunque, lei di mestiere fa la consulente d'immagine, ha scritto un libro, Professione Consulente d'Immagine, insieme a Sara Pupillo, che mi sono sfogliato avidamente questa mattina, quando dalla metropolitana sono poi arrivato alla radio, e ho capito che probabilmente molto dovrei fare sulla mia persona, ma ormai mi sembra che sono oltre i tempi massimi. Lei cosa ne pensa di questi consulenti online, innanzitutto? Ma ho avuto modo di visionare anch'io su YouTube gli innumerevoli consigli. In realtà quello dell'immagine è un mondo piuttosto affascinante e alcuni li ho trovati molto divertenti. Prima parlava di quel signore che dispensava dei consigli sulla comunicazione non verbale. Ecco, sì, ma perché con un golfino rosso orribile, con la cravatta che traspare dal golfino e si vede che è comprato al mercatino dei cinesi? Ecco, diciamo che è un po' come la figura del calzolaio, il calzolaio che va in giro con le scarpe rotte. In realtà la figura del consulente d'immagine è veramente molto molto complessa, perché deve rispettare un certo tipo di canone a 360 gradi, molto spesso è più la pigrizia. Infatti lei me gioca bene, perché non la vedo, perché avrei esatto probabilmente mille cose da dire. Ma guardi, sul sito ho messo qualche foto, però diciamo che il fotografo è stato molto bravo. Me le vado a vedere mentre parla, vado avanti. Bene. Beh, e comunque sì, non è difficile, oggi basta appunto una telecamera, la tecnologia ci fa in modo che noi possiamo comunicare con decine di migliaia di persone e mettere online qualsiasi cosa, qualsiasi consiglio. Ecco, da un punto di vista professionale, ecco, magari sminuisce un po' un certo tipo di figure, ad esempio come la mia, per cui entro un po' in un calderone. Io ho fatto un percorso professionale un pochino diverso rispetto ai miei colleghi, la maggior parte dei miei colleghi italiani. Lei si occupava di spettacolo prima, qualcosa del genere? Sì, io ho lavorato per diversi anni in Sony Music e da lì effettivamente è incominciata la mia esperienza come artista. Sì, diciamo così, però inizialmente era semplicemente un divertimento, per cui sostituivo delle celebrity stylist in alcuni momenti contingenti. Poi da lì in realtà ho capito che non sapevo assolutamente come gestire il mestiere, per cui sono stata poi all'estero, ho seguito dei corsi. Guarda, io sto scartabellando il suo sito, non trovo le sue foto, finora sto vedendo soltanto il profilo aziendale. Vado avanti. No, senta, una cosa volevo domandarle, ma... Io il suo libro davanti lo sto, che è una sorta di manuale per quelli che dovrebbero fare il suo lavoro, più che altro, sì, mi sembra aver capito. Sì. Spiega come trovare il cliente, quali sono i clienti migliori, come analizzare il cliente, le tipologie di clienti, poi parliamo e ci classifichiamo secondo il vostro schema e la vostra maniera di approcciare i nostri problemi, di essere migliorati come immagine. Anzi, 800 24 0024, chi volesse sgraffignare consulenze gratuite questa mattina alla radio, almeno per quanto è possibile, Margherita Perico vi darà qualche consiglio. Quindi guardate allo specchio, se come me che vi osservate delle scarpe antiche ai piedi e vi sembravano belle, vuol dire che c'è qualche problema. Dicevo, ma la vostra consulenza serve per realmente migliorare l'immagine di una persona o per farlo star meglio, per rassicurarlo? Dice, ho letto un pezzo formidabile, deconcentrate l'attenzione della persona dalla sua pancia, se ha un po' abbondante di pancia. Sì, in realtà è un servizio che aiuta gli individui a esprimere in maniera più veloce ed efficace i suoi messaggi di comunicazione verbale o non verbale. Il consulente d'immagine è un po' come un personal coach, però dello stile, per cui è quel professionista che utilizza delle tecniche specifiche, quali la scelta di alcuni colori che possono essere giusti per valorizzare un incarnato, una capigliatura, gli occhi, il camouflage per esaltare i punti di forza. Ecco perché in realtà il consulente d'immagine non consiglia di andare dal dietologo piuttosto che andare da un personal trainer, opera direttamente con l'individuo tel quel, nel senso, nessuno di noi è perfetto. L'ho aggiunta ai miei amici di Facebook, mi deve accettare così vedo anche il suo profilo. Ok, in questo lo momento farò, non mancherò. No, per però cui... è caruccia, ha un bel taglierino nero, vedo, che è la base per una signora milanese per essere sempre a posto. E poi sa, il nero è il mio colore preferito, purtroppo. Ecco, perché tutte le signore milanesi vestono sempre di nero? Sembra un grande funerale quando si entra nella metropolitana o si va per strada. Ma fa parte dei sistemi... Ah, è un colore facile. È un colore facile, facilmente adattabile, da mattino a sera è considerato un colore estremamente chic. Poi, insomma, va comunque fatta una distinzione tra quella che è la stagione estiva e quella che è la stagione autunnale e invernale. Se lei avesse modo invece di conoscermi, vedrebbe che io sono monotona, è sempre solo nero, anche un colore abbastanza rassicurante comunque. Poi è considerato un colore intellettuale, ecco, io non mi considero assolutamente un intellettuale, ecco, tendo a sottolinearlo sempre. No, è interessante, così capisco se c'è dietro questa scelta. Sentiamo un attimo Francesca. Francesca, buongiorno. Buongiorno. Io volevo dire la mia, dunque volevo dire questa cosa, che da quando ho 16 anni, adesso ne ho 39, la mia immagine praticamente è simile a quella del passato, per non dire la stessa, nel senso che comunque mi piace sempre vestirmi di nero e il mio trucco è sempre particolarmente marcato e mi sembra quasi che a questa modalità che ho espressiva corrisponda la mia immagine interiore. Mi sembra che è un messaggio che do agli altri e gli altri comunque stranamente hanno una visione. Cioè sembra aperta. Uscita dalla famiglia Adams praticamente. No, non a questi livelli, però comunque sì, è abbastanza marcata questa cosa. Ho anche la pretesa comunque di dare un'immagine che forse non è quella che do vestendomi in questo modo qua o truccandomi in questo modo, e gli altri vedo che hanno una visione errata della Francesca che sono, nel senso che mi vedono un attimino aggressiva, mentre invece all'interno io credo che il nero possa rappresentare comunque una certa profondità, un'estrema dolcezza, quasi insomma la visione di una persona che ha una grossa capacità di pensiero. Sentiamo cosa dice Margherita Perico, così vedo subito quali sono le linee di operazione. Allora, Francesca ha una nera profondità che vorrebbe mostrare agli altri, che però maschera questo suo atteggiamento dark, che però è mutato in tanti anni. Cosa accade a questa ragazza? Beh, accade che in realtà il nostro aspetto ovviamente costituisce la prima fase della comunicazione. Quando si parla di immagine, io cito sempre un aforisma di McKenna, per cui che non capita mai due volte l'occasione di dare una prima impressione. Perché le scelte che operano nel nostro guardaroba sono dettate però anche da strategie personali, per cui Francesca sceglie la ricerca del comfort, l'adattamento al ruolo che ricopre o altro. Però dobbiamo ricordarci una cosa, è che la società è anche dettata da dei totem visivi, per cui come lei giustamente prima, Gianluca, mi chiedeva per quale motivo noi a Milano utilizzassimo quasi solo esclusivamente il colore nero, è che in diverse regioni, poi quello che è detto effettivamente la moda, quello che noi vediamo, leggiamo, sfogliamo sulle riviste o su internet è quello. Il nero in realtà è abbinato a un colore estremamente fashion, ma è anche un colore dell'introspezione. Infatti, però mi scrive Piera su Facebook, dice: il nero è rassicurante, lo confermo, sono fissata col total black e non riuscirei mai a vedermi con qualcosa di colorato addosso. Uno abituato al nero improvvisamente sente quasi una frustata sulla sua pelle se mette qualcosa di colorato. In fondo il nero toglie ogni dubbio, toglie ogni perplessità. Come alzare spalle cadenti? Ricorrete a scolli con linee orizzontali, spalline, alamari, maniche arricciate o a sbuffo. Snellire e allungare il collo. Ricorrete a indumenti dagli scolli profondi, meglio a V. Blazer a uno o due bottoni, collane lunghe, orecchini non pendenti, capelli corti. Abbiamo tratto una schedina da quello che è il libro Professione consulente d'immagine di Margherita Perico e Sara Pupillo, edizione Franco Angi. Facciamo sentire qualche altro consiglio condensato e poi andremo con le vostre richieste. Tecniche di camouflage per lei. Come slanciare e sgonfiare la vostra figura? Ricorrete a un outfit con un unico colore, meglio se scuro e opaco, da capo a piedi. Tessuti con stampe minuscole, scarpe e calze dello stesso colore dell'orlo della gonna o pantalone, abiti con linee interne verticali o diagonali, scarpe con tacco, pantaloni con le righe e senza tasche. Ecco Margherita, ho tantissime persone che mi stanno scrivendo su Facebook. La media sono signore che stanno andando oltre 30 anni, forse più, e che acquistano questo desiderio di sobrietà. E vedo che la costante è sempre questa, di concentrarsi su una sorta di costume nero totale che pare che sia il toccasana per ogni imperfezione data dal tempo. Ma sa, l'immagine comunque, la consulenza d'immagine si basa su tecniche regolate da delle leggi ottiche, per cui il nero, non ricordiamoci, che è anche un forte deterrente per apparire più snelli e più alti. Perché il nero? Perché il nero è l'insieme di tutti i colori e il nero non riflette la luce. Ecco perché si parla tanto del nero. Non solo è facile, ma ci sono anche fortissime implicazioni da un punto di vista visivo, così come anche nella clip che ha appena inviato, le linee verticali, le linee orizzontali, la differenza. Ecco, quando si parla di immagine, diciamo che non deve essere semplicemente una scelta operata nel proprio guardaroba, una cosa a caso, oppure dettata da esigenze solo esclusivamente di oddio chi devo incontrare o cosa devo fare, ma è soprattutto legata a un atto volontaristico e lucido di dire: da oggi voglio cambiare, essere diverso. 800 24 00 24, andremo avanti tra un istante dopo l'informazione dalla borsa, forse con le tecniche di camouflage, che mi sembrano quelle più interessanti. Come camuffarsi? Perché se fosse soltanto consigliare di vestirsi in nero, tutti saremmo consulenti d'immagine. Melog 2.0. La prima regola che ti suggerisco di fare per entrare in sintonia con gli altri in un istante è: fai tu il primo passo. Sì, vai tu per primo verso l'altra persona. Ed è anche molto importante che quando vai verso di lui tu riesca a capire se la persona ha più piacere che tu stia alla sua destra piuttosto che alla tua sinistra. Ti racconto una piccola storia. Io ho incontrato una persona tempo fa molto importante con la quale dovevo fare coaching, dovevo lavorare. E andai a bere un caffè con questa persona e mi misi alla sua destra camminando per vedere come reagiva, se si avvicinava o si allontanava da me. Al ritorno mi misi dalla parte opposta per tornare al suo ufficio. Mi accorsi che quando stavo io alla sua destra tendeva ad avvicinarsi a me. Allora dove mi sono seduto secondo te? Mi sono seduto alla sua destra, di modo da farlo sentire meglio, perché quella è la sua parte preferita. Questo è Maglioncino Rosso Trasparente, il consulente d'immagine che abbiamo beccato su YouTube, e domando invece a Margherita Perico, che ha scritto un libro sulla professione consulente d'immagine, ma il consulente d'immagine poi diventa come una sorta di accessorio organico alla nostra persona, non ci si stacca più di dosso, sempre necessario avercelo dietro. No, assolutamente, contrariamente a quanto si pensa. Cioè io penso che questo signore col maglioncino che mi sta sempre appiccicato addosso, mi vengono i brividi. No, in realtà la bravura del consulente d'immagine è quella proprio di rendere il cliente assolutamente indipendente, per cui ogni consulenza, ogni individuo è un mondo a sé stante, ha delle esigenze specifiche e il consulente deve riuscire a interagire con lui o con lei, insomma col cliente, di modo tale che questa persona impari a gestire la propria immagine in maniera assolutamente autonoma. Noi abbiamo parlato soltanto di donne finora. Gli uomini, che saranno sicuramente tra i suoi clienti, quale pongono come primo problema per loro drammaticamente difficile da risolvere? Ma l'universo maschile richiede soprattutto consigli dal taglio business, come ad esempio qual è l'abbigliamento migliore per presentarsi a un appuntamento di relazioni pubbliche. E poi sono sempre vestiti uguali, non so se uno li vede nel Milano-Roma, Roma-Milano, sono tutti vestiti uguali, sembrano comprati al supermercato, grisaglia o rigatino adesso che va, con pantalone stretto in fondo, scarpa burina allungata, stanno tutti lì uguali, telefonino all'orecchio e poi basta, finito, non vedo grande fantasia. Sono assolutamente d'accordo, è proprio perché in realtà loro si sono standardizzati a quella che è in realtà la moda. Il consulente d'immagine non segue la moda, assolutamente no. Io seguo la moda per mio diletto e chiaramente molte persone mi chiedono di... In realtà io seguo dei canoni che sono completamente diversi, io rispetto la fisicità dell'individuo. Poi è vero, ci sono ad esempio dei colori che in ambiente professionale sono più adatti rispetto ad altri, tra cui il blu, che è il colore ad esempio della comunicazione. È vero, molti usano quello che lei chiama rigatino, in realtà è il gessato. Sì, il gessato, perché sì. È un pochino snellisce, dà un po' l'idea di una situazione... Sì, ma sembrano Fred Buscaglione, una cosa che non se ne rendono conto. No, però dipende. Se lei entra nel negozio, come lei ben sa, di abbigliamento maschile, a parte che esiste un ampio range di negozi di questo genere, anche per abbigliamento maschile, e se entra lei ha la possibilità di trovare... Guardi, per me è una tortura come entrare in una sala di tortura o in un campo di prigionia. Io ho risolto il mio problema, lo dico, lo sanno ormai ai Vox Populi. Anno scorso feci a Radio 24 La Notte della Passione, vennero tutti i fedeli ascoltatori, tra cui una signora che faceva personal dresser. Mi prese le misure mentre conducevo la trasmissione, da allora la tabella delle mie misure mi confeziona vestiti a distanza e me li manda. Non ho manco bisogno di vedere più una sarta o un venditore di abiti, tutti uguali, tutti neri naturalmente. Sentiamo adesso alcune ascoltatrici che avrebbero domande da farle. Resti in ascolto, prenda appunti. Francesca. Sì, buongiorno. Niente, io volevo dire che faccio un lavoro in divisa, per cui mi sento proprio spersonalizzata e tante volte penso di voler cambiare lavoro proprio per potermi vestire e poter esprimere il meglio di me stessa, anche se poi mi guardo intorno e molti colleghi, cioè in base a come portano la divisa naturalmente poi emerge, no? Il tipo di personalità, il modo di essere, però ecco, tante volte mi pesa la divisa, ecco. Ma... adesso poi le risponderà l'esperta, ma la giornata è molto lunga, si potrà anche oltre l'orario di lavoro. È molto lunga, poi quando si torna a casa ci sono i bambini, per cui ci si mette comodi dentro casa, insomma le occasioni per quindi uscire. Quindi lei passa dalla divisa alle ciabatte, esatto. o al pigiama di flanella, quindi esatto. Non ha un momento per esprimersi. Esatto. Nemmeno nelle ore notturne, immagino. Nelle ore notturne si lavora anche di notte. Lo so, è molto dura, la capisco. Liv, buongiorno. Buongiorno a tutti. Io ho sentito questa trasmissione. Lei si trucca come una bestia. Come? Lei sì, come una bestia. No, una bestia è un po' così, però come gli animali. È la stessa cosa. Certe volte, per esempio, mi piace truccarmi tutti gli occhi come un samoiedo, sono quei cani bianchi con gli occhi neri. Oppure da leone, allora ho tutti i capelli ricci, tutti così a criniera. Oppure da ermellino, tutti i capelli bianchi con le punte nere. Così, e mi piace anche farmi i vestiti da sola. E mi piace essere in questo modo, lo posso anche fare. Cioè, ci fa dei vestiti con la coda e con le orecchie, no? Spero. Sì, mi piacerebbe molto, quelli li metto soltanto nei disegni. Però mi piacevano, io da piccola avevo una cuffietta con le orecchie, mi piaceva moltissimo. Cioè, mi piace, però sono cose appena accennate, non se ne accorgono. Sì, ma con questi accessori autocostruiti che esprimono la sua molteplice personalità belluina, lei poi esce anche o si sta in casa? Sì, chiama... perché sono poi delle piccole cose, piccoli accenni, non so, adesso le faccio, se io voglio vestirmi da oca. Sì, ma molte volte, guardi, si può fare anche senza particolari vestiti. Somigliare un'oca non è difficile. Ne voglio dire, un vestito bianco con una pochette arancione, per me quello è già un vestito un po' da oca. Sembra Paperina, la fidanzata di Paperina. Bianca e arancione, come il becco e il vabbè, ciumano. Almeno ha messo fantasia. Sentiamo un po' cosa dirà Margherita Pergo, sentiamo ancora Giulia. Giulia. Sì, ciao Gianluca. Io penso che vestirsi di nero in un modo colorato sia un po' triste. Io personalmente non amo il nero. Quelle poche volte che ho provato mi sono sentita quasi a disagio, come soffocata. E amo i colori, però non i colori che vanno di moda. Anzi, tendo a evitare. Quindi avrà evitato anche il viola accuratamente in quest'ultimo anno. Penso che è il mio colore preferito, il lilla. E in questo periodo che c'è l'invasione di viola, di lilla, io non lo porto. Non lo porto perché mi sembra di fare la pecorona, mi sento unificata, e invece voglio portarlo proprio quando non lo portano gli altri per far vedere che a me piace. Ecco, capisci? Margherita Pergo, io partirei proprio da quest'ultima ascoltatrice. Sì. Le ondate cromatiche di moda, è un anno e mezzo circa che dalle bancarelle ai negozi del corso si vede tutta una grande macchia viola, ma è successo per il verdino, per l'arancione, per il rosso, per il bianco e via dicendo. E come si fa a sfuggire a questa calamità cromatica? Ma semplicemente non acquistando quelli che sono i capi prettamente, quelli che sono i trend. In realtà è chiaro che la moda ha delle esigenze prettamente commerciali. Per quale motivo inventano i colori? Perché dal momento che ormai non possono più inventare il maglioncino con lo scollo V, perché c'è, esiste da diversi anni, allora devono puntare chiaramente sui colori. Si sfugge semplicemente scegliendo quello che è il colore che in realtà sta meglio o che piace di più. Ma secondo lei c'è veramente uno studio dietro a queste ondate cromatiche? Ricordo un meraviglioso monologo di Meryl Streep nel Diavolo Veste Prada, quando insegna alla sua giovane ignorante lavorante che quel colore celeste del maglioncino che lei ha comprato infeltrito nella bancarella, in realtà c'è dietro uno studio profondissimo di immagine, per cui anni prima magari andava di moda. Esatto, in genere i cool hunter, i trendsetter, sono quelle persone che scoprono. È caduta su questo inquietante termine del culante, che però sono quelli che vanno in giro a cacciare le tendenze, a cercare appunto le nuove tendenze. Visto che abbiamo parecchie domande che mi vengono fatte su Facebook, ne elenco qualcuna, mentre avete capito che la consulente d'immagine è scivolata nella sua linea telefonica, la stiamo recuperando. Ah, c'è Giampiero, finalmente un uomo. Giampiero, buongiorno. Buongiorno Luca, grazie per lo spazio. Sì. Chiedevo intervenire perché sentivo, sono in viaggio, sentivo questa simpatica trasmissione e mi stavo facendo una domanda. Questo libro, che in qualche modo dovrebbe configurare quello che è il ruolo della consulente di immagine. La sento veramente male, Giampiero. Riassumo la domanda che la leggo nella scheda. Lei vorrebbe sapere se oltre al vestirsi ci sono dei consigli più legati alla postura, al comportamento. Margherita Perico, un ascoltatore ci domanda se tutto è questione soltanto di abito o anche per fare il monaco ci vuole qualcos'altro. Per fare il monaco ci vuole anche una grande personalità, anche perché in realtà noi al mattino aprendo il nostro armadio dovremmo pensare in realtà che messaggi vogliamo trasmettere nel corso della nostra giornata. Ora, ricollegandoci invece al discorso di Francesca, che ha serie difficoltà a indossare ogni giorno una divisa, sì, è abbastanza noioso, però Francesca opera e lavora all'interno di un settore specifico, all'interno di un'azienda, e questa divisa è il frutto della lavorazione di quella che è l'immagine aziendale, per cui la brand identity. Fuori può vestire e indossare tutto quello che vuole, però all'interno dell'azienda deve indossare una divisa, che a volte risulta scomodo, però quando si entra all'interno di un'azienda, i mobili parlano, le brochure parlano dell'azienda stessa, in realtà anche le divise servono proprio per quello. Io non mi lamenterei nemmeno molto quando vedo gentili, meravigliose, con delle unghie bellissime, delle pettinature e dei sorrisi che fanno invidia, signorine che la mattina puliscono con la scopa le strade di Roma, dico, beh, la brand identity per loro è avere una ramazza in mano e un giaccone orrendo giallo fosforescente. Non si lamenti la signora di mettere il taglierino per avere la brand identity della sua azienda. 800 24 00 24. Noi tutti sappiamo, quando cominciamo a frequentare già da qualche anno l'età maggiore, quali sono i nostri difetti. Noi tutti sappiamo esattamente quale sia il nostro punto debole, ma in realtà nessuno o pochi hanno veramente il problema di come porsi per migliorarsi. Ogni tanto, sul far dell'estate, si va in palestra, si cerca di acchittarsi meglio quando si ha un appuntamento importante, quando si passano delle fasi della vita in cui abbiamo qualcuno che ci guarda con maggiore attenzione. Ma in realtà la professione di essere migliori verso il mondo esterno, di camuffare i propri difetti, fa parte di alcune professionalità, anzi di gran parte delle professionalità di oggi. E noi stiamo cercando questa mattina, insieme a Margherita Perico, che è una consulente d'immagine, di capire quali sono gli elementi di pronto intervento. Abbiamo Alberto. Alberto, buongiorno. Salve Gianluca, complimenti per la trasmissione. Io, beh, prima sentivo parlare di immagine, quindi abbigliamento lessi, vabbè, io faccio l'agente di commercio, quindi non è solo l'abbigliamento, ma è tutta una serie di tecniche che alla fine è comunicazione. Anche lei è una brand identity, cioè deve mettersi in qualche maniera per il prodotto che vende? No, in realtà no, io lo faccio per me stesso, poi è chiaro, se hai davanti una persona che comunque è abbastanza a confidenza verso se stesso, è a posto, è comunque più gradevole di una persona che arriva lì impacciata, non sa come muoversi, non sa come... Beh, chiaramente migliorare se stessi è una tecnica per migliorare anche la comunicazione. Qual è la sua arma segreta, Alberto? Ma non ci sono armi segrete, diciamo che la comunicazione secondo me dipende con chi si ha a che fare. Come sì, andiamo a cose pratiche. Sì, lei quando, a cose pratiche, quando okay, si acchitta... A cosa, io per esempio, per me le scarpe sono molto importanti, prima perché le vedo, la giacca non me la vedo addosso, grazie a Dio, quando mi vedo in una foto mi faccio orrore. Lei qual è il punto forte? Non sarebbe da vederla in questi termini, perché la figura è intera, quindi la postura, come parla, la velocità con cui dialoga, con quella con cui io sto dialogando con lei, è importante, sono tante componenti. Comunque, rimanendo solo all'abbigliamento, la figura gradevole deve essere nel suo insieme. Io in quel carinissimo volumetto che lessi, parlo di 15 o 20 anni fa, cosa da 2000 lire in libreria, diceva, e io sono, lo approvo, che contrariamente, la differenza tra uomo e donna nell'abbigliamento è la donna può mettersi qualsiasi cosa per esaltare la propria bellezza, la propria femminilità, mentre l'uomo deve essere molto più schematico. Non ci deve essere nulla nell'abbigliamento che sia così risaltante rispetto al resto. In sostanza, quando io dialogo con lei, lei non deve guardare, che so, i miei gemelli colore fluorescente o le mie scarpe di un colore strano, ma deve essere il dialogo che si esalta, mentre la figura deve essere, diciamo, l'abito deve essere così bello che scompare di fronte alla persona. Io personalmente trovo patetico l'accessorio maschile, l'anello, l'orologio molto vistoso, non parliamo del braccialetto, non parliamo del polsino della camicia, il gemello, poi proporrei lasciare il taglio della mano islamico per gli uomini che portano gemelli, la scarpa particolarmente allungata e squadrettata, il risvolto del pantalone particolarmente alto, le camicie con le iniziali mi fanno venire i mali di stomaco, le cravatte molto gonfie ancora, il capello ipercurato. Magari alle donne piacciono questo tipo di attenzioni, ma io trovo delle cose ridondanti rispetto alla giusta trasparenza che ha detto lei che dovrebbe avere un uomo nel suo aspetto esteriore. Daniela. Ciao a tutti, io volevo chiedere un'informazione soprattutto a Margherita. Io sono sia estetista che naturopata e... Lei cosa è? Sia estetista che naturopata. Naturopata me lo deve spiegare, perché qualcosa che ha a che fare con la natura e mi fa venire dei brividi, cosa significa? Tutto quello che riguarda riflessologia plantare, massaggio sciatico. Ah, sui piedi, ah, ecco. E medicine ecco. Alternative. Ah sì, ha 22 anni, quindi è giovanissima. Sì. Quindi è massaggiatrice e esperta in piedi, e vorrebbe sapere? E vorrei sapere, soprattutto da Margherita, perché io vorrei fare la consulente estetica fin da quando ero piccola, ancora prima di diplomarmi. Ma legata all'estremità inferiore o di tutta la persona? No, di tutta la persona, quello che è la consulente d'immagine. Guardi, questa mattina nel vagone della metropolitana sono stato calamitato. Una signora che leggeva un libro, non era assolutamente nulla di particolarmente appariscente, aveva dei sandaletti con dei piedi. Non ho nessuna predilezione per il feticismo, però devo dire che nel grigiore, nella tristezza, nei volti affumicati, addormentati, nei giornali stazionati della metropolitana mattutina, quello smalto rosso e quei sandaletti bianchi, fuori stagione, perché ormai andare con i sandaletti bianchi con le nuvole nere fuori tempo, illuminavano la metropolitana, quindi probabilmente qualcosa si può fare. Margherita, come fa Daniela a diventare consulente d'immagine? Beh, in Italia all'estero esiste veramente un ampissimo range di corsi. La prima cosa è sicuramente, il primo consiglio è quello di frequentare un corso professionale in Italia o all'estero. Digitando semplicemente su Google si trova un'ampissima scelta formativa. Ci sono corsi di qualsiasi genere, di qualsiasi durata, diurni, serali, concentrati, a partire sicuramente da qualcosa. E poi, ecco, oggi siamo completamente proiettati nell'era telematica, incominciare a entrare nel mondo della consulenza d'immagine cercando di studiare chi effettivamente svolge questo tipo di attività, dove la svolge, cosa fa, come la svolge, e iniziare a capire effettivamente come entrare in questo tipo di mondo. Mi risolve anche a me un problema. Dica. Cosa dovrebbe farmi, se io ne prendessi uno al mio servizio, un personal shopper proattivo? Un personal shopper proattivo? Nel suo libro c'è trucchi per il personal shopper proattivo. Io immagino sia qualcuno che ti insegna a fare acquisti. Sì. Però dovrebbe anche sovrapporsi alla tua volontà di farli in qualche maniera. Ma allora il personal shopper proattivo è in realtà quella figura professionale che riesce a capire le esigenze del cliente, per cui non è solo un accompagnatore, un mero accompagnatore, ma è colui che individua il negozio, la boutique più adatta alle esigenze del cliente sulla base del budget che ha a disposizione. Ecco, secondo lei, le pongo il problema che ho sollevato questa mattina, perché penso che l'esperienza personale sia quella che poi più facilmente dà spunti di riflessione agli ascoltatori. Io che mi sono accorto questa mattina che le scarpette che trovavo meravigliose, alla moda, comodissime, le ho comprate 5 anni fa. Non mi sembra vero, sembrano nuove, le metto poco, cambio spesso. Ecco, qual è il mio problema? Che penso che sia condiviso con un'infinità di persone che hanno gli armadi pieni di cose nuove che considerano bellissime, a cui sono affezionati, ma che sarebbe il caso di prendere e regalare magari a qualcuno, perché non ha senso. Scarpe che da 5 anni uno si porta dietro, è assurdo, vuol dire che nella vita si compra 10 paia di scarpe. Ma no, sa, io trovo meraviglioso le persone in generale, perché vede, lei così, io sono completamente diversa, le persone che abbiamo sentito questa mattina, Liv, Giulia, Francesco, Roberto, Daniela, tutte persone con esigenze estremamente diverse, mondi diversi. Il mondo è bello perché vario, dico sempre. Lei ha deciso che questo paio di scarpe fino a ieri erano il suo paio di scarpe preferite, semplicemente lei è cambiato, perché ciascuno di noi... No, è diverso il ragionamento che ho fatto questa mattina, dico, se mi durano 5 anni, io ho 55 anni, se non me le compro alla svelta, le scarpe mi sopravviveranno, quindi ho fatto i conti, dico, quelle che mi compro oggi ce le avrò a 60 anni, ma 60 anni camminerò col triciclo probabilmente, col catetere in mano e via dicendo, quindi questo mi ha atterrito. Beh, magari il consiglio è quello di usare più spesso, se sono le sue scarpe preferite non le lasci nell'armadio, non le lasci nel guardaroba, ma le usi più spesso. Ma poi, voglio dire, secondo me è affascinante comunque pensare al fatto che lei possa aver fatto, anche solo formulato, questo tipo di pensiero, nel senso, avrà soltanto 10 paia di scarpe, questo lo aggiungerò nel prossimo libro che sto scrivendo. Senta, ultima cosa, perché me lo chiedono in tanti, su quei budget bisogna disporre per avere un consulente d'immagine? Quanto si spende più o meno, mi dia una cifra orientativa. Ma dipende sempre praticamente dagli interventi. Ora non si viaggia mai su cifre assolutamente astronomiche, anche perché si sa che si lavora con persone, tra virgolette, mi passi il termine, estremamente normali. Si va dalle mezze giornate, le giornate intere. Una mezza giornata può costare intorno ai 200-300 euro o una giornata intera. Dipende sempre anche con quale consulente d'immagine si vuole lavorare. Ma è come lo psicanalista, uno se lo deve tirare dietro tutta la vita, a un certo punto uno sa tutto e può salutarlo il consulente. deve sapere tutto e salutare il consulente. Ah beh, questo è importante, non crea dipendenza la consulenza d'immagine. La ringrazio, ringrazio quanti ci hanno chiamato disperatamente, ma visto che il problema è così visceralmente sentito, non è detto che noi ci torniamo. A domani. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog. 828 1111. Melog va in replica questa sera alle 22:00.